Sì, direi che possiamo cominciare, spero che si senta. Allora, dunque, vi dico, già come ha detto Marco prima, se è possibile che spegnate video e microfoni finché non si parla, sembra che non si senta la voce, vediamo di aumentare un po' di più. Però ditemi se mi sentite, Io sì. Sì, io ti sento bene. Però, insomma. uno che sente poco, ma Sì, anch'io sento. perché sento che se aumento troppo sale il rumore di fondo. Cercherò di alzare la voce, cosa per me è difficile. Chi vuole intervenire cortesemente si segnala sulla chat e poi passeremo agli interventi. Dopo di me ci sarà un intervento dell'Usi Sanità che interverrà anche su quello che sta succedendo. Allora spiego l'obiettivo dell'incontro di questa sera, più non è certo quello di dare delle parole d'ordine, di dare delle indicazioni in generali, ma è quello un po' di porsi dei problemi, di ragionare su come affrontare questa situazione, almeno le nostre intenzioni, con quello di riuscire in qualche modo a contribuire a fornire degli elementi che siano utili per elaborare una visione, un'interpretazione che sia indipendente, autonoma in questo frangente, in questa situazione molto pesante, a partire poi da questo libro, Lo spillover del profitto. Anche io penso che siamo proprio dentro, in effetti, a una specie di guerra, o quantomeno c'è un linguaggio di guerra a cui siamo in qualche modo colpiti, un linguaggio che almeno nelle forme prosegue quella politica del terrore, del terrorismo mediatico che ha contraddistinto questi anni di gestione del capitalismo. Una guerra perché ci sono effettivamente dei caduti e sono tanti, siamo oltre 60.000 qui in Italia, è una cosa che non vedevamo da tempo, con un nazionalismo che rimonta, con la fine anche del mito di una crescita perenne felice, senza grossi problemi se non crisi per il capitalismo e con grossi pericoli che si intravedono, che si sentono dietro l'angolo, per quanto occultate, per quanto riguarda la stessa sopravvivenza della specie umana tramite virus che si diffondono, distruzione dell'ambiente e così via, a causa di questo sistema sociale, con delle contraddizioni che sono alle porte, che bussano sempre di più, con cose anche che sicuramente diciamo, non si vedevano e non ci aspettavamo fino a poco tempo fa. Mi riferisco alle mobilitazioni degli Stati Uniti, amplissime, a quello che è successo in Guatemala, a quello che sta succedendo in India, uno sciopero di centinaia di milioni di persone come non si vedeva da parecchio, non si è mai visto, a quello che c'è in Francia, in Cile, e a tutto quello che come contraddizioni non è stato sopito dalla crisi della pandemica, ma che continua a vivere, che probabilmente riemergerà nuovamente in una situazione che sicuramente, come si diceva, non sarà più nulla come prima, e adesso stiamo cominciando a vedere questa modifica. E penso che si possa benissimo partire da questo libro che abbiamo fatto, Lo Spillover, a cui abbiamo contribuito e ci sono una serie di contributi che io giudico piuttosto interessanti e che ci servono, ci fornisce una serie di valutazioni che sono contrapposte a quelle un po' della vulgata ufficiale del governo e delle cosiddette opposizioni, che sono un po' dei punti fermi da cui secondo me si può partire per iniziare a ragionare. Un primo punto fermo che emerge dai saggi, secondo me, è quello che non siamo di fronte a una catastrofe naturale inattesa, sbucata dal nulla, che non si sapeva che ci poteva essere. ma siamo di fronte ad un fenomeno naturale, il virus, il salto di specie che è stato effettuato dal virus, che si è propagato con questa pandemia per il modo in cui il capitalismo si sta riproducendo, per lo sfruttamento sempre più intenso ed esteso del pianeta, per la commistione con gli habitat selvatici, per l'inquinamento, per lo stress a cui è sottoposta la popolazione e così via. Sentite, sento un grosso, adesso non si va. Diciamo che una situazione che la circolazione delle merci e degli umani per il profitto è il veicolo del contagio e noi siamo qui ad aspettare questa terza, come si dice, terza ondata. Sento un'onda di ritorno in questo caso. Un altro punto che direi è fondamentale, che emerge già dagli scritti che ci sono nel libro, è che la crisi ciclica del capitale dopo il culmine di quella del 2008 era già in preparazione, si stavano accumulando le forze dell'esplosione, ce n'erano tutte le premesse, e queste premesse si sono saldate con la pandemia. La pandemia di Covid ha fatto da detonatore ed amplificatore della crisi, una crisi che stiamo cominciando a vivere, di cui, vi ritengo, non abbiamo ancora pieno compreso la profondità che ci aspetta, nei quali fenomeni e contraccolpi sociali metterà in campo, perché siamo di fronte a una situazione, per molti versi, senza precedenti. Abbiamo su questo una certezza, come emerge nei saggi, ad esempio anche quanto ha scritto Visconti su questo libro, che il capitalismo sta affrontando questa situazione apparentemente con alcuni aspetti che sono quelli dell'economia di guerra, che rimane una possibilità eventuale ma non scontata delle sue scelte, ma principalmente con dei metodi che sono sempre quelli che si permette, che può permettersi, con iniezioni monetarie di capitali liquidi, che però non rimetteranno in moto la situazione, non rimetteranno in moto l'economia. Al di là di quello che abitualmente si pensa, c'è già un'eccedenza enorme di capitali, c'era già prima, questi non saranno assolutamente in grado di rilanciare il ciclo economico, di un ciclo ascendente, e tutti i soldi che verranno utilizzati contribuiranno a creare quello che ci aspetta, una sorta di stagnazione, che richiederà una profonda ristrutturazione del capitalismo, un capitalismo sempre meno in grado di controllare e andare avanti con gli attuali equilibri politici e sociali, quindi che sicuramente, dobbiamo metterlo nel conto, comporterà nuovi e durissimi attacchi al salario nelle sue forme, dirette e indirette. Già in piena pandemia, se vi ricordate, Boccia ha cominciato a richiederlo apertamente, di affrontare la nuova fase con ulteriori tagli e riduzioni salariali dei diritti e delle condizioni. Come sempre, nulla di nuovo, ma per affrontare una situazione nuova. A questo possiamo aggiungere anche una serie di valutazioni che ci sono nel libro, che sono fondamentali per capire l'epocalità della situazione. Cosa intendo dire? Ci sono delle modalità tecniche e fisiche nel modo in cui questa società si riproduce, che comportano una distruzione sempre più pesante dell'habitat umano, dell'ecosistema, avvelenando, desertificando territori, aree, spazi. Pensiamo all'estrazione del silicio, al land grabbing, al discorso dell'acqua che ha prosciugato il lago Aral e così via, cose di questo genere che contribuiscono a creare una situazione che sarà sempre più pesante, sempre più contraddittoria. Per la prima volta, diciamo, dal punto di vista storico, esiste la possibilità che il modo produttivo, il capitalismo, possa portare alla distruzione della specie umana. E in qualche modo, sicuramente, la lotta per l'emancipazione sociale, per la liberazione dal capitalismo, tende sempre più a diventare un fatto universale, di specie. Certe soluzioni riguardano ormai la sopravvivenza della specie. Il capitalismo, per riprodursi, non è in grado di garantire la sopravvivenza della specie. Non è più solo una cosa imputabile al pericolo della guerra nucleare, ma è imputabile al percorso, al ciclo di riproduzione capitalistico. Non dico certo tutto di quello che c'è nel libro, ci sono moltissime cose che scordo, che sarebbe interessante, però da questi punti preliminari che ho delineato penso che si possano affrontare primi tre punti: sanità, vaccini e chi paga tutta questa cosa, che sono un po' dei momenti topici dello scontro sociale che è in atto adesso, sia più in generale a livello internazionale sia in Italia, all'interno di un quadro politico, diciamo, restringendo a quest'ottica, che pone all'interno delle varie situazioni specifiche dal punto di vista nazionale, pone un grossissimo ricatto a tutti. O arrivare a un lockdown per salvare vite umane, o nessun lockdown per salvare posti di lavoro. C'è questo ricatto che è una prosecuzione e amplificazione di quello fatto per l'ambiente negli anni scorsi, o che si fa adesso a Taranto, o posti di lavoro o morte, e così via, è all'interno di una situazione in cui una minoranza dell'umanità, diciamo una infima minoranza dell'umanità con una grossa ricchezza, è ben determinata a salvarsi facendoci vivere e lavorare in condizioni che sono quelle di un probabile contagio, un probabile pericolo per buona parte, per la gran maggioranza dell'umanità. Sulla base di questi tre punti, di queste premesse, affronterei di iniziare a fare delle riflessioni, ripeto, riflessioni per iniziare a determinare delle valutazioni più ampie, perché altrimenti, mancando un punto di vista autonomo della classe e del proletariato, non si riesce a venirne fuori. Noi come centro di documentazione non possiamo né vogliamo dare linee complessive, eccetera, vogliamo contribuire a puntualizzare delle riflessioni. Un primo punto che è sembrato fondamentale è quello della sanità. Il disastro, direi che sotto gli occhi di tutti, non entro nel merito, cioè sappiamo, è inutile andare oltre questa constatazione. Voglio solo ricordare un fatto, ne parlerò tra breve, sicuramente questo viene imputato alle varie controriforme sanitarie che hanno distrutto la sanità, ma una delle concause di questa situazione è sicuramente anche la gestione della pandemia che è stata fatta, specie all'inizio, con la scelta di far lavorare. Se ne è parlato poco in risibili dibattiti a sfondo elettorale, con reciproci scambi di accuse tra centrodestra e centrosinistra, ma si è sorvolato. Penso che una delle colpe fondamentali di questa situazione vada imputata alle scelte fatte di non proclamare le zone rosse, soprattutto a Bergamo, a Brescia, e questa colpa ricade sul governo e sull'opposizione. Il governo non ha proclamato le zone rosse, non l'ha fatto la regione, nessuno dei due è intervenuto per dire l'altro non lo fa. Contemporaneamente la Confindustria chiedeva si continuasse a lavorare in questa situazione, poi dice: non spettava a me fare delle leggi, io ho detto cosa ne pensavo, però punto e basta. In più, non solo, se vi ricordate, in quel periodo il sindaco di Bergamo, Gori, metteva gli autobus gratuiti in giro per la città e la gente poteva andare domenica gratuitamente a diffondere il contagio. Sala qui a Milano sponsorizzava la riapertura, hanno fatto anche un bel filmato, Milano Riprende, che è una porcheria abominevole, nei giorni in cui stava ripartendo su grande scala il contagio. Se vi ricordate, Salvini su Facebook e in TV gridava: adesso abbiamo contenuto la soluzione, si apre dappertutto. Per finire, Zingaretti andava ai Navigli con la campagna del PD a invitare a prendere gli aperitivi e si è preso il Covid. E questa riapertura, questa cosa che hanno fatto all'inizio della prima pandemia, è stato uno dei grossi elementi che hanno consentito, assieme agli errori, eccetera, e assieme alla distruzione della preesistente della sanità, di creare la situazione che viviamo. Ma tornando al discorso sanità, una cosa che penso vada detta, perché bisogna sfuggire dal dibattito: è meglio la sanità della Lombardia o dell'Emilia o del Veneto? Centrodestra e centrosinistra negli anni precedenti hanno disastrato la sanità. La sanità che noi viviamo oggi è una sanità che è un disastro perché è figlia della finanziarizzazione della salute. È collegata a una medicina che è la medicina solo per i pazienti solvibili, inteso con questi pazienti che qui possono pagare, ma anche per i paesi che se la possono pagare a livello internazionale la medicina. una ristrutturazione della sanità nel corso di 20 anni, se non più, dietro esigenze di bilancio e per esigenze di profitto, che ha condotto a una tutela subordinazione della medicina ai profitti, alle vendite, ai protocolli dettati dall'industria farmaceutica. Se fate presente, se uno andava a rimandare, tanto per dirne una, di vaccini di cui poi parleremo, fino a poco tempo fa non è che intervenissero molto, si parlava di altre malattie, malattie per la cardiologia vascolare, per il colesterolo, per l'ipotenza vascolare, su questo si facevano tutti i vari affari, però con una serie di metodiche e di cure da seguire che sono quelle dettate dall'industria della farmaceutica. Alla privatizzazione sempre più diffusa della medicina e della salute, con l'ospedalizzazione, al taglio drastico di ospedali, medici, infermieri, della prevenzione territoriale, alla sua regionalizzazione che è funzionale alla lottizzazione, privatizzazione su base specifica del posto, ma anche di grossi gruppi nazionali. Il risultato l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Se uno va in ospedale può trovarsi al pronto soccorso un medico di qualche cooperativa che è privo di specializzazione di qualunque genere, ma se è di una cooperativa e se è in appalto lo può fare. Gli infermieri da tempo sono sottopagati, ci sono infermieri di cooperative, infermieri che vengono da paesi esteri, tutto il personale sanitario è stressato, sottopagato, non preparato, quando si fa la formazione se la deve pagare, spesso e volentieri. Intanto la sanità privata tende a soppiantare quella pubblica, andare avanti. Qui abbiamo, rimanendo alla regione Lombardia che conosciamo più, per i tamponi dovevi pagarli privatamente, non si trovano più medici di base, e tutto questo è frutto di un taglio selvaggio della sanità. Dati, cioè, insomma, dall'81 sembra che siamo un po' persi 340.000 posti letto negli ospedali, dal 2009 che siano stati tagliati quasi 40 miliardi di spesa sanitaria, ma è una cosa che riguarda anche gli altri paesi. Dico solo, in Germania ormai la percentuale degli ospedali privati è il 33% del totale, per dire, di uno dei paesi che avrebbe la sanità migliore. Ma l'evidenza di questa distruzione, di questo fatto che la salute è diventato non un diritto, non un bene essenziale, ma un costo da ridurre in nome dei bilanci, del debito da ridurre e da contenere, è la famosa questione del piano pandemico. Un po' se ne parla in giro, ci sono alcune trasmissioni, ma una cosa che è chiara: dopo l'influenza aviaria l'OMS aveva dato come disposizione che tutti i paesi adottassero dei piani pandemici per affrontare le sempre più previste pandemie derivate dallo spillover dei virus, come l'aviaria, come l'ebola e tutte queste, e così via. Questo piano venne fatto nel 2006, da allora non è mai più stato rifatto, non l'ha fatto ogni 4 anni, è stato aggiornato col copia e incolla, e i risultati li abbiamo visti. Non c'era un servizio sanitario, che fosse pubblico o privato qui in Italia, che fosse in grado di affrontare la pandemia. Sono state date anche disposizioni di riaprire gli ospedali dopo che hanno trovato i primi contagi, ma non è un fatto solamente italiano. Pensiamo alla Francia, dove improvvisamente, a pandemia che esplode, tutte le mascherine del piano pandemico non c'erano più, erano sparite, e così via. Quando la salute è un costo, i risultati sono questi. Aggiungiamoci, solamente per chiudere quel discorso, anche lo sciupio, la distruzione. Si parla di un debito della sanità che cresce. Pensiamo a casi come quello della Calabria, dove ci sono 6-7 ospedali che sono stati costruiti e sono vuoti, non utilizzati, oppure grazie al sistema della regionalizzazione, della lottizzazione dei direttori sanitari e così via, si paga, diciamo, la contabilità della sanità calabrese è a voce, e i fornitori, cioè l'industria farmaceutica, viene pagata 2-3 volte per la stessa fattura. Ma questo sciupio, questa distruzione, non è una cosa che riguarda solo situazioni locali, pensiamo al piano nazionale. Anticipo, uno dei medicinali che si è detto potessero servire nella cura del Covid è il Remdesivir. Qualche tempo fa, poco tempo fa, la FDA, l'ente americano statunitense per l'autorizzazione dei farmaci, aveva autorizzato questo farmaco per la cura del affrontare le cure del Covid. Fatto questo, l'Europa ha acquistato 200 milioni di Remdesivir e l'Italia 51 milioni di euro di questi 200 milioni. Una settimana dopo, e poi vedremo successivamente come funziona il meccanismo, una settimana dopo l'EMA, l'ente europeo per l'autorizzazione dei farmaci, ha detto che il Remdesivir non serve a niente e non può essere commercializzato. Quindi lo Stato italiano ha acquistato 51 milioni e pagato, non solo acquistato, ha pagato 51 milioni di Remdesivir che rimarrà lì a ingrossare il debito della sanità necessario. Poi ciascuno di noi potrà avere le sue storie, le sue esperienze con i medici di base, con le analisi per raccontare che cosa ti dicono e che cosa ti fanno nelle varie situazioni e le varie realtà. Rispetto alla situazione di disastro sanitario, è curioso, se non fosse peggio, come vogliono affrontarla. In questi giorni sta circolando, anche se sarebbe solo a uso interno, e viene fatto circolare sulla stampa, il documento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Next Generation Italia, io ho la copia aggiornata al 6 dicembre, a uso interno del Consiglio dei Ministri, chi vuole glielo posso far avere. In questo si danno alcune indicazioni per la spesa del famoso fondo di 209 milioni di euro. Ne avete sentito parlare della faccenda per il casino che sta piantando Renzi per piazzare i suoi uomini, ma in realtà il capitolo che parla della sanità è molto indicativo. Allora, che cosa, vi cito solo questo, come iniziano? Il Servizio Sanitario Nazionale Italiano è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei pochissimi sistemi, come uno dei pochissimi sistemi che nel garantire la salute come diritto riesce a raggiungere elevati risultati in termini di salute e al contempo una spesa sanitaria contenuta. Risultati elevati in termini di salute con 60.000 morti di Covid, direi che è una bella sparata, non dico qui. E poi si compiacciono, perché l'idea è quella del bilancio da salvaguardare, che la spesa sanitaria pubblica in Italia rispetto al PIL è il 6,5, che è inferiore alla media europea del 7,8, al 9,6 della Germania, al 9,4 della Francia. Tra le altre cose, vorranno ancora ridurla nel 2023. Perché c'è una digitalizzazione che cresce nella sanità e si possono risparmiare le spese. Ma come vogliono affrontare la situazione di disastro? 9 miliardi su 209, va detto, sono ben pochi rispetto al totale. Ma come? Con la digitalizzazione 4.0 vogliono digitalizzare il più possibile, dando più capitale, capitali dei privati, soprattutto alla ricerca sanitaria, quindi privatizzando la ricerca e danno poi i brevetti. E come? Si parla genericamente di una carenza di medici per alcune specializzazioni, di infermieri, si riconosce che il numero di medici, il numero, scusate, di infermieri è inferiore al resto dei paesi OCSE, sarebbero 5,8 per 1000 abitanti rispetto alla media europea. Però non c'è una parola che riguardi la situazione contrattuale delle cooperative, degli appalti, di queste cose, il blocco che è stato fatto, le assunzioni e così via. Di tutto questo non si parla niente. Ma vi dico solo una cosa, la ciliegina da mettere sulla torta. Si interessano della nostra sanità. La Commissione europea ha costituito una commissione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità Europea ha costituito la Commissione OE Paneuropea per la Salute e lo Sviluppo Sostenibile, che dovrebbe ripensare le priorità e le politiche da attuare alla luce della pandemia. Questa commissione, insediata in agosto, è fatta da 17 membri, scelti dal direttore regionale dell'OMS. 5 hanno esperienze sanitarie, 5 di banca, gli altri sono politici. Sapete che il presidente, ve lo ricordate, un certo signor Monti, quello che ha tagliato come un disgraziato la sanità. All'interno dei primi documenti di questa commissione, ovviamente, immaginatevi di come si procede per parlare della sanità, per i risparmi di costo, per rilanciarle, e sicuramente si parla di sanità e non certo della salute pubblica, che sarebbe quello che ci può interessare. Detto questo, direi che noi abbiamo un piccolo problema, almeno con l'occhio rivolto alla situazione lombarda, ma sarebbe interessante sentire anche quello che dicono da altre regioni e altre realtà. Di fronte a questo disastro, di fronte allo smantellamento progressivo della sanità e alla trasformazione della salute, ha un bene da acquistarsi, una merce da comprare. Di fronte a tutto questo, noi dobbiamo iniziare a riconvertire, a raddrizzare la rotta. Non abbiamo semplicemente il problema di, come si può dire, commissariare e basta la sanità lombarda, che ha dato probabilmente uno dei peggiori, se non il peggior, esempio di risultato, ma abbiamo la necessità di iniziare a riformulare il discorso della salute come diritto essenziale. Bisogna muoversi, a mio avviso, per riparlare di un'unica sanità nazionale, ponendo fine all'utilizzazione regionale e alla sua privatizzazione, con una sanità che sia gratuita e universalistica, con un rientro di tutto il settore privatizzato nel pubblico senza indennizzo, con un unico contratto per i lavoratori della sanità, che non ci sia più pubblico e privato, ma un unico settore, con un modello di assistenza determinato dai bisogni sociali di cura e non dai numeri di bilancio di Stato, del bilancio da recuperare, dalle indicazioni del Fondo Monetario Nazionale e così via. Non si tratta in questo modo, secondo me, di ripristinare banalmente la proprietà giuridica pubblica del servizio sanitario, ma di fargli cambiare rotta sulla base di una spinta sociale in questo senso. E in questo senso, non me la faccio lunga perché c'è chi interverrà di più su questo, la lotta che c'è negli ospedali che sta partendo per le condizioni di lavoro, per la sicurezza, non solo deve collegarsi a un quadro più generale della sanità, ma deve uscire dall'ospedale e collegarsi ai malati, a noi che siamo i pazienti o i futuri pazienti. A noi come i futuri pazienti dobbiamo comprendere e agire che la lotta di questi lavoratori all'interno delle strutture sanitarie è una garanzia perché ci possa essere una cura efficace, perché passa attraverso anche la possibilità di una cura reale, la modifica delle condizioni complessive di lavoro e di assistenza negli ospedali. Dobbiamo collegarci, unirci. La questione non è richiudibile a un piano strettamente sindacale, è politico, e deve vedere l'incontro tra chi lavora dentro e chi, non usiamo questo termine utente perché è da schiaffone in questo caso, ma dal malato, ma dal lavoratore che fuori ha bisogno della salute e della sanità, per far fine con questo tipo di modello che è comune al centrodestra, al centrodestra, alle varie soluzioni capitalistiche. Passo ad altro punto e cerco di andare più veloce. I vaccini. Prometto che non affrontiamo qui oggi la problematica funziona, se ha effetti collaterali, eccetera. Su questo ci sarebbe tantissimo da dire, io sono tra i primi critici in questo senso. Ma mi interessa affrontarlo dal punto di vista della questione del farmaco cosiddetto universalistico, cosiddetto fondamentale per tutti e così viene vissuto, e di quello che sta succedendo, ma brevemente. Io penso che vada lanciato un discorso molto chiaro sul fatto che questo vaccino per il Covid debba essere gratuito e universale, che soprattutto non debba essere brevettato, che gli studi debbano essere integralmente pubblici da subito, che tutti i contratti che sono stati sottoscritti dagli stati per l'acquisto e per le condizioni di vendita con le aziende farmaceutiche siano immediatamente desecretati, perché sono desecretati. Questa cosa è fondamentale, perché noi abbiamo una situazione che probabilmente all'immediato vedrà un'assenza di vaccino, non si sa se sapranno produrla, ma nel corso del prossimo anno, a fine anno probabilmente avremo 3 vaccini per persona nei paesi sviluppati e un vaccino ogni 3 persone, forse a partire dal 2024 nelle aree più arretrate del mondo. Questa cosa qui è fondamentale, poter dire che il brevetto di un vaccino è un delitto contro l'umanità, e dei delitti contro l'umanità se ne fanno molti. Di tutti i vaccini, oggi solo quello contro la poliomielite di Savin è senza brevetto. Le industrie farmaceutiche, sono infine quelle fondamentali europee, Pfizer, Glaxo, Merck e così via, hanno in mano tutti i brevetti, e invece dobbiamo dire che va levato, che chi brevetta questi vaccini è un criminale per la sopravvivenza della specie. Tenete presente questo, che al vaccino ci si arriva in questo modo. C'è una prima fase, che è quella in cui viene brevettato, poi si passa all'autorizzazione, che viene fatta prima, o si cerca di fare prima, alla Food and Drug Administration americana. In questo caso si fa prima negli Stati Uniti, perché il prezzo è libero, mentre in Europa è regolamentato. Poi si viene, dopo l'FDA, all'EMA europea, che deciderà non sul prezzo, ma sulla vendibilità del vaccino o del medicinale. In questo modo il prezzo viene di fatto fissato preventivamente sul mercato libero e sarà quello di riferimento nelle successive trattative che vengono fatte con i governi. E anche sul Covid il governo ha fatto la sua trattativa e secretato il prezzo. L'acquisto è sempre negoziato dai vaccini e il prezzo viene stabilito da loro segretamente. Generalmente ci svincola dal prezzo dei costi di produzione, è diverso da Stato a Stato e da gruppo di Stati. Viene argomentato che ognuno dovrebbe pagare quanto gli è possibile, che fanno pagare di meno ai paesi meno sviluppati. È una grossa farsa. In questo modo viene mascherato un problema, che è quello che in realtà il prezzo di vendita si svincola dal costo di produzione dato a questa sentenza con la complicità degli stati, consentendo al settore farmaceutico una sorta di rendito, di sovrapprofitto, che viene pagato da noi con la spesa sanitaria, con le trattenute che abbiamo. Un esempio di cosa voglio dire: c'è un vaccino che sta circolando, il Prevenar 13 della Pfizer, è un vaccino per la prevenzione nei neonati, nei bambini, della polmonite e dell'otite. È stato commercializzato in questo modo. Si è saputo il prezzo. Costa 105 euro in Italia una dose, 55 euro in Francia, 80 in Germania, 144 negli USA. È lo stesso vaccino. Quindi si vede cosa vuol dire anche per gli altri vaccini e cosa significa. I prezzi come vengono fatti? Si spiega, vi do un'idea sola. L'amministratore delegato della Gilead, che produceva il Remdesivir, che vi dicevo abbiamo comprato per 51 milioni e rimarrà lì, ha fatto questo calcolo. C'è una, come si dice, un open letter, una lettera aperta che ha fatto circolare dopo le notizie apparse sulla stampa, dicendo approssimativamente il costo dei pazienti da Covid, grazie al Remdesivir, negli ospedali degli Stati Uniti viene ridotto di 4 giorni, cioè di $12,000. Questo vuol dire che noi faremo pagare le dosi, ce ne vogliono 5 per ridurre di 4 giorni l'ospedalizzazione. Dando questo risparmio, chiudiamo $390 a dose, quindi $2,340. E $2,340 è il prezzo commerciale del Remdesivir, che viene fatto in questo modo. Tenete presente che poi, se l'accordo di riservatezza non dite altro e c'è un altro prezzo, noi non dovremmo sapere, non si viene a conoscenza del costo. In più ci sarebbe una regola per cui, in caso di difficoltà dal punto di vista economico di un paese, potrebbe essere anche usato il cosiddetto farmaco generico, che esiste anche dal vaccino, perché la diciamo, la capacità tecnologica, oggi basta prendere un vaccino, lo analizzi e lo rifai ormai a un certo momento in buona parte dei paesi. Nei contratti è previsto che se tu acquisti il vaccino non potrai produrre o commercializzare il generico e non potrai avere accordi commerciali di vendita vaccini con paesi terzi che ne facciano uso. Se vi ricordate, parecchi anni fa il Sudafrica aveva iniziato a commercializzare il generico delle medicinali per l'HIV. In Sudafrica venne messo sotto processo dalle multinazionali del farmaco e dovete fare un accordo per aumentare i prezzi di vendita e pagare le royalty, perché se no si sarebbe trovato senza altri medicinali in vendita nel Sudafrica. Quindi è questo qui il tipo di situazione che c'è. D'altra parte, questo scenario è stato profondamente modificato dal Covid e dagli tentativi che si stanno facendo. Prima di questa situazione i vaccini non erano l'aspetto principale dell'industria farmaceutica, che si dirigevano più su altri farmaci e su altre cose. In questo contesto è diventato anche il grande affare. Si stanno sviluppando oggi come oggi circa 140-160 vaccini. Però nella costruzione del vaccino, il 70% della ricerca, della sperimentazione di tutti i vaccini, nelle due prime fasi del processo di sviluppo, è fatto dal settore pubblico, dai centri di ricerca universitari, da società pubbliche costruite appositamente, in special modo negli Stati Uniti. Però queste escono di scena quando si arriva alla terza fase, quando si ha l'ultima sperimentazione e viene fatta la brevettazione su larga, la brevettazione del prodotto. Nella terza fase, quella che è immediatamente precedente al commercio, in genere entrano in gioco le società private che si appropriano dei brevetti. La logica stessa con cui funziona questo strumento della brevettatura consente che il contributo del settore pubblico venga completamente cancellato. Nel caso del Covid è una cosa fondamentale, perché è stato finanziato dai settori pubblici. A partire dagli Stati Uniti, tutti gli stati hanno investito in grande stile in questi settori, commissionando le ricerche a aziende pubbliche, a settori pubblici, in collaborazione con le grosse aziende fondamentali private e con raccolte di fondi fatte dalla Gavi, che il Gavi è quella struttura pubblica di cui fanno parte Bill Gates con la sua fondazione, l'OMS, che dovrebbe vendere i vaccini a basso costo. Un solo esempio: il vaccino di Ebola, che è uscito nel novembre del 2019, era stato sviluppato a partire dal 2006 dal National Microbiology Laboratory di Winnipeg, un centro di ricerca del Public Health Agency del canadese, e poi da BPS, un'azienda americana pubblica che è andata avanti con fondi pubblici. Nell'ultima fase è entrata la Merck con il sostegno della Gavi, come vi dicevo prima, e il vaccino è stato commercializzato e brevettato da Merck e adesso. Questo qui è una situazione che vuol dire anche altre cose che si fanno, e vado verso la chiusura di questo punto. Per dire che succedono anche cose che alle volte non ci si immagina. Poco tempo fa l'amministratore delegato di Pfizer ha dato l'annuncio del vaccino della Pfizer. Il giorno dopo di questo annuncio, l'amministratore delegato della Pfizer vendeva il 62% delle sue azioni Pfizer di propria proprietà. Le azioni erano salite del 16%, ha venduto 132.508 azioni a un prezzo medio di $41.90, che era all'incirca, con una corrispondenza, a $5.6 milioni, è quasi il valore massimo fatto da queste azioni nelle ultime 52 settimane. Dal punto di vista della legge americana è una cosa legalissima, perché era stato deciso in agosto, mentre erano in corso le ricerche sul coronavirus. Diciamo che è molto indicativo che si sia scelto di fare la conferenza stampa in cui si dava l'annuncio il giorno prima della vendita di queste azioni. Ma non è l'unica. Moderna, che ha l'altro vaccino, ha dato la sua conferenza stampa sui risultati con il vaccino e il suo titolo è aumentato enormemente verso gli 80 dollari. Alla chiusura del mercato ha fatto un'offerta pubblica di acquisto di titoli propri e guarda caso il grosso venditore, la flagship Pioneering, che è la grossa proprietaria delle azioni della Moderna, e vede tra i suoi dirigenti, il suo massimo dirigente Banci, che è l'amministratore delegato sempre di Moderna e tra i grossi proprietari di azioni di Moderna stessa. In questo modo si fanno gli affari e questo è il mercato che dovrebbe essere sbaraccato completamente dei vaccini. E dico che bisogna fare una propaganda, una richiesta di por fine al brevetto a questo meccanismo, perché in realtà altri sistemi non funzionano. È in corso in questo momento, ad esempio, una raccolta di firme che dovrebbe servire per chiedere all'Europa, diciamo, di far sì che sia possibile usare i farmaci generici almeno in paesi con difficoltà economiche. Quindi è in corso una raccolta di firme che si fa su una pagina di un sito della Comunità Europea per raggiungere 1 milione di firme, 180.000 euro, per dire che sia possibile produrre il virus con farmaco generico nei paesi in difficoltà. Fare una cosa del genere oggi come oggi è completamente assurdo, arriverà dopo che i vaccini sono già stati distribuiti. Quello che occorre secondo me invece è iniziare a diffondere una valutazione sul fatto della delinquenza che c'è in corso da parte del capitalismo su queste cose, che sarebbe necessario non solo che sia gratuito e universale, ma che sia elevato questo meccanismo dei brevetti per dei meccanismi che sono fondamentali per la sopravvivenza della specie umana, diciamo. E chiudo, vado a chiudere con questo discorso di chi paga. Chi paga si dice spesso, perché senza farla molto lunga su questa cosa qua, si parla di debito nella sanità pubblica che è sempre più alto e così via, si spende per la sanità pubblica gettando via, pagando le royalty e i guadagni azionari a queste genti, ma diciamo che siamo noi, che è il proletariato, a pagare con il welfare, con le tasse, tutte queste spese qua, tutte queste fonti. In questo caso qui ci si inizia a parlare di tassa di scopo, di tassa di solidarietà, si dicono varie cose a questo proposito, ma in realtà chi è chiamato a pagare, perché è chiamato a pagare direttamente con tasse indirette o con la riduzione dei salari, dei diritti, delle erogazioni welfare e così via, è sempre il proletariato. La situazione che ci aspetta è in questo senso, e anche il fatto che giustamente il vaccino deve essere gratuito, deve essere comunque pagato. Se il capitalismo non fosse il capitalismo, potrebbe ridurre altre spese, come quelle delle armi, come quelle di attività inutili, ma non è questo il capitalismo, quindi non lo farà. Una delle cose di cui si inizia a parlare è la proposta di una patrimoniale, della patrimoniale che ad esempio è stata fatta in Argentina adesso, è una misura in quanto tale assolutamente compatibile e possibile col capitalismo, però dobbiamo vedere l'aspetto politico della situazione. A me non è che entusiasmi al 100%, non è la risoluzione, ma inizia, secondo me, a doverci dire qualche cosa. Noi qui in Italia abbiamo assistito a tentativi, non dico interessanti, molto risibili, ma c'è quello fatto da Fratoianni con percentuali altissime a cui avrebbe dovuto essere applicata una percentuale irrisoria di patrimoniale. Grillo l'ha rilanciata sui redditi sopra i 5 milioni, altrettanto risibile. il Fatto Quotidiano sta lanciando anche lui una raccolta di firme per la proposta di una patrimoniale. Queste cose interessano ben poco, penso che non hanno senso. Io penso che sia molto più interessante, però molto più necessario iniziare a dire che i costi dell'assistenza in questa fase, i costi del rilancio della sanità, delle cure, debbano essere pagati dalla minoranza della popolazione più ricca, da quell'infima minoranza, attraverso una patrimoniale, attraverso una tassa che riguardi loro, che non sia di tutti. Va chiuso con il meccanismo, faccio un esempio per capirci, si parla del disastro ambientale, quello che si riesce a pensare è di mettere una tassa indiretta su tutti e non una tassa su chi distrugge l'ambiente o su chi fa i profitti anche con l'industria cosiddetta verde. È ora di iniziare a far capire che le tasse in un paese come l'Italia si vuole continuare a far pagarle sempre al lavoro salariato, al lavoro dipendente, e che questo meccanismo va chiuso. Il primo punto per dire che non è né risolutivo, né la cosa che ci risolve, né una rivendicazione rivoluzionaria, ma in questo contesto può avere un effetto di rottura, è iniziare a dire che i costi di questa situazione li vada a pagare questa parte minoritaria, ma enormemente ricca della popolazione, a partire da quella italiana. E chiudo qui perché se no vado avanti troppo e preferisco che si possa in qualche modo discutere, poi eventualmente si approfondisce. Niente, volevo semplicemente sapere se Pino e tutti gli altri compagni, che so che hanno un altro appuntamento più tardi, se vogliono intervenire subito e poi possono diventare liberi e noi potremmo continuare. Cosa dite voi? Pronto? Mi sentite? Ok, ok. Va bene. No, ma bene. Io mi voglio sapere da Pino, da Joe o dagli altri che mi ascoltano se devono intervenire subito. Sì, io sono Gianni, non so se mi conoscete. Lavoravo all'ospedale San Carlo, adesso sono in pensione. In pratica noi dell'Ursi dell'ospedale San Carlo e San Paolo abbiamo messo su uno stato di agitazione perché le condizioni che c'erano all'interno degli ospedali erano talmente invivibili, perché se non si faceva nulla le cose sarebbero andate sempre peggio. E quindi da settembre abbiamo iniziato questo lavoro che ci ha portato poi a davanti al prefetto per le modalità di conciliazione, e abbiamo poi indetto lo sciopero per il 14 dicembre nel comparto sanità dell'ospedale San Carlo e dell'ospedale di San Paolo. In questo percorso sono successe delle cose. Noi stavamo facendo questo percorso, diciamo, di stato di agitazione, perché avevamo appunto avuto dai lavoratori questo problema. E durante questo stato di agitazione è venuto fuori che all'ospedale San Carlo Borromeo, facendo parte della SST, 50 medici avevano scritto una lettera alla direzione generale in cui lamentavano la mancanza di personale e la mancanza di attrezzature per la sicurezza. Quello che loro denunciavano era che in pratica l'ospedalista, gli animatori e altro personale non poteva intervenire nel minuto immediato in cui c'era la richiesta di assistenza, di intervento. Quindi veniva procrastinato l'intervento che doveva essere fatto. Questo certo, loro l'hanno scritto, non potevano prevedere che cosa fosse successo al paziente, diciamo, in questo stato. Se quindi poteva, diciamo, l'assistenza arrivare, anche se in ritardo, arrivare, diciamo, giusta, oppure dovevano scegliere chi curare. Questa lettera era stata preceduta da una email al direttore generale della SST, dalla dottoressa capo dipartimento del pronto soccorso. In pratica si chiedeva la chiusura per questo affollamento del pronto soccorso. Questa richiesta è arrivata al direttore il 26 di ottobre e poi è arrivata in un secondo momento dai medici, da un gruppo di 50 medici che non avevano risposta dal direttore generale, e che hanno protocollato questa lettera. Il direttore generale, invece di preoccuparsi immediatamente della situazione e quindi andare da prefetto, dalla regione, per concordare, diciamo, la chiusura immediata del pronto soccorso per una settimana, 10 giorni, non fa questo, che era il suo compito come direttore generale di un ospedale. Lui è il direttore sanitario. Invece di fare questo, iniziano una persecuzione nei confronti dei medici. Vogliono capire chi ha mandato, perché poi la lettera a un certo punto è uscita, è andata sulla stampa, è diventata pubblica. E questi medici, forse consapevolmente, cioè disperati dalla situazione, l'hanno scritta e divulgata, perché non avendo nessuna risposta da parte della direzione, si sentivano proprio soli e abbandonati. Diciamo, questa è quello che è successo, per cui noi dell'USI stavamo facendo delle azioni per lo stato di agitazione, e questa cosa è capitata nel mentre si stavano facendo queste cose, per cui l'infermiere che è sul tetto è tutto detto. Poi si è inserito anche il discorso del comitato, per cui poi venuto fuori anche quello a livello cittadino, diciamo, non solo l'USI ma anche il comitato, che si interessava di queste cose. E dopo il direttore generale ha fatto una delibera in cui ha istituito una commissione d'indagine per questi fatti, e nella commissione d'indagine vi erano 4 capi di dipartimento medico che avevano già sottoscritto una lettera a favore della direzione, e quindi era un chiaro conflitto di interesse tra questi capi di partizione e far parte di una commissione che poi doveva giudicare i 50 medici. Il direttore generale aveva, con nominando questa commissione, aveva già potuto esaminare, si era fatto portare le cartelle, diciamo, dei pazienti che erano stati curati in quelle giornate. E anche questo è un fatto molto strano, perché loro hanno già visto le cartelle, sanno che cosa andare a cercare, perché poi in quei momenti l'emergenza anche i medici scrivono tutto e, diciamo, fare tutto in un certo modo, qualche errore ci può essere dentro le cartelle, sicuramente. Per cui stanno esaminando adesso la commissione che è stata creata, sta sta in pratica acquisendo la documentazione e sentendo i medici di questa situazione. Nel frattempo, però, è successo un altro fatto in cui il direttore generale della Sanità Lombarda, la Sanità Lombarda su questa storia è stata in silenzio per 20 giorni. Non abbiamo comunque pur avendo articoli sui giornali di questa notizia, l'intervento della regione ha aspettato 20 giorni per farsi sentire. E ultimamente sta cercando di fare la cosa tra la luce e il lume. Diciamo che nel discorso che ha fatto l'incontro tra la direzione del San Carlo, per i veri come stato di fare in guarda e la ex capo di partimento del primo percorso e hanno contentato già tutte le cose, esatto, non si capisce, però tardano a essere messi in campo. Perché? Perché posso dovrebbe dimettersi. Scusa Gianni, perché più al microfono, alza il volume, si capisce. Allora, l'unica cosa che dovrebbe succedere è che il direttore generale Matteo Stocco dovrebbe autodimettersi o comunque essere commissariato immediatamente dalla regione Lombardia. Questo per adesso non sta accadendo, anche perché Stocco ha esposto facendo in questo modo, perché in quel modo lì magari chiudeva con un soccorso una settimana, c'era qualche articolo sui giornali, ma nulla di più, cioè era un fatto comunque che poteva starci, no? La chiusura per un sovraffollamento di pazienti in un pronto soccorso. Ma il suo modo invece, che è stato quello di perseguire i medici e di mettere su una cosa che ha prodotto poi un'esposizione dei lavoratori su cose che lui doveva risolvere, è stato veramente assurdo. Cioè lui dovrebbe essere chiamato per aver, diciamo, fatto queste cose qui. Invece la regione Lombardia cerca di annacquare, di vedere se si riesce ad avere una soluzione, diciamo, non traumatica per la dirigenza dell'ospedale, e questo sta allungando un po' i tempi di tutta la faccenda. Nulla. Hai finito Gianni o hai caduto la linea? Ah, non si capisce. Tu mi senti Francesco? Sì, lo sento, è Gianni che è sparito, ma non so se... Se qualcuno usa sanità vuole, tanto per chiudere, darci la programma della giornata di lunedì, che io so inizia alle 8.45 con un presidio al San Carlo, se ci sentono e vogliono raccontare quei 3-4 momenti della giornata di lunedì. Non ci sentono più? Non rispondono. Andiamo avanti, perché sennò... Niente, Gianni, Pino, Giovanna, non ci sentite più. Va bene, no, quello che non lo posso dire io, perché sono cose che sono state già lanciate, che lunedì 14 dicembre la giornata della mobilitazione inizia alle 8.45 con un presidio all'ospedale San Carlo. Ci sarà un ulteriore presidio alle 10 al San Paolo, il quale poi dovrebbe esserci anche un altro presidio alle 14.30 alla regione Lombardia. Questo è quanto io ho letto su quelle cose che circolavano. Bene, torniamo forse indietro un attimo. Se qualcuno voleva domandare, chiedere, considerare qualcosa rispetto a quanto si è raccontato, ecco. Spero che mi sentite. Sì, ti si sente. Marco, mi senti? Ci sentiamo, sì. Sulla questione del contratto unico della sanità, perché un punto che ha accennato Francesco merita sviluppo in questo momento e non da oggi. La sanità italiana è stata, come dire, tenuta a stecchetto dal punto di vista dei tagli ormai trentennali sull'apparato pubblico e dal punto di vista dello sviluppo che hanno consentito più o meno tutte le regioni, in particolare la Lombardia, all'apparato privato, alle grandi, ai grandi gruppi sanitari privati che si sono formati nel frattempo, grazie a un dominio specifico della forza lavoro, dominio a cui hanno cooperato in modo sistematico anche i sindacati confederali, a parte gli altri sindacati dei medici e professionali. Se si va in un ospedale oggi, abbiamo una situazione contrattuale che anche negli ospedali pubblici, dove vige il contratto della sanità pubblica, che fino a 20 anni fa o 15 anni fa era legato, era quello che si applicava praticamente in tutta la sanità pubblica e privata, se si entra in un ospedale pubblico abbiamo una grossa parte dei dipendenti che è inquadrata col contratto sanità pubblica, una massa crescente di dipendenti che sono in appalto e che quindi vengono inquadrati, perché non sono assunti, non possono essere assunti dato il blocco delle assunzioni che proseguirà in modo regolare, e vengono forniti da diverse cooperative. Questi ormai possono gestire anche una parte dei reparti. Poi abbiamo il personale medico che viene preso spot con contratti precari, perché c'è il blocco delle assunzioni anche dei medici. Nella sanità privata, addirittura in uno stesso ospedale, un po' come alla Fiat, vi possono essere 3, 4, 5 regimi contrattuali. Quello della sanità privata per gli assunti fino a un certo tempo, per esempio fino al 31 dicembre del 2005, faccio una data così. Quelli della sanità privata significa contratto ARIS e AIOP, che si è andato distaccando 20 anni fa dalla sanità pubblica. Quello della sanità, quello diciamo di altre categorie come l'UNEBA, la NASTE, i contratti delle cooperative. È estremamente difficile in queste condizioni di lavoro operare una unità di lotta, di azione o comunque anche di difesa della propria salute per i lavoratori, e questo si è visto chiaramente con il Covid. Ad esempio, nella sanità pubblica o in certi ospedali o in certe residenze sanitarie, i lavoratori direttamente impiegati da quell'imprenditore o da quell'azienda ospedaliera hanno una certa regolamentazione della sicurezza sul lavoro. I lavoratori che invece lavorano nelle ditte di appalto, anche se dovrebbero essere controllati dall'ente o dal datore di lavoro che appalta il servizio, hanno un'altra regolamentazione della sicurezza sul lavoro. In alcune residenze sanitarie, ad esempio, le cooperative che effettuano le pulizie lavorano in condizioni estremamente difficili perché hanno dotazioni personali di sicurezza assolutamente insufficienti e quindi circolano nello stesso ambiente in cui circolano i lavoratori dell'ospedale o della residenza sanitaria, ma possono essere contagiate e contagiare proprio perché non hanno protezioni adeguate. Questa situazione è terribile perché è da 10-15 anni che sta aumentando di volta in volta. Dicevo che anche i confederali sono direttamente responsabili di questa situazione perché per esempio in alcune residenze sanitarie che prima avevano il contratto enti locali o il contratto della sanità pubblica, per i dipendenti assunti dopo una certa data hanno applicato i contratti UNEBA che sono molto deteriori o ANASTE, sono deteriori non solo nelle condizioni normative ma anche e soprattutto per l'orario che è di 38 ore e non di 36, per i turni, per altre voci normative. Quindi qui si pone un problema per i lavoratori combattivi che nella sanità ci sono, ma che sono molto, come dire, divisi anche per realtà in cui lavorano. Quello di portare avanti una grande battaglia che è sindacale ma che è anche politica per il contratto unico, che dovrebbe essere parificato, riportato al contratto della sanità pubblica e che poi deve portare anche rivendicazioni specifiche sull'orario di lavoro che non può superare 36 ore e dovrebbe essere ridotto, sulle condizioni normative, permessi, ferie, eccetera, che per la sanità sono particolarmente importanti dato il tipo di lavoro. Questo lavorio richiede una unione di lavoratori di diverse aziende che pure lavorano nella stessa sede di lavoro e richiede anche una unione tra diverse sedi di lavoro. Ed è, secondo me, uno dei punti principali oggi, perché senza unire i lavoratori della sanità, senza costituire una forte organizzazione di lavoratori combattivi nel settore, non si potrà fermare la deriva affaristica, finanziaria e di potere della sanità. Come ha detto Francesco, abbiamo nella sanità e soprattutto nella sanità lombarda, ma penso che non cambi in Lombardia piuttosto che in Sicilia, una organizzazione del potere che sceglie i dirigenti, potere locale, ma questo è garantito anche da una legislazione nazionale, non sto a spiegarvi, potere locale che sceglie i dirigenti secondo uno schema preciso. I dirigenti della sanità regionale devono essere quelli che chiudono gli occhi e aprono le strade a qualsiasi avanzata della sanità privata, da un lato, e dall'altro impongono qualsiasi taglio della sanità pubblica. Uno. Due, i dirigenti apicali vengono scelti, lo sappiamo, per fedeltà politica, ma la fedeltà politica è anche una fedeltà ideologica, perché se la sanità è diventata un mercato, lo è sempre stata, ma mai come in questo momento storico, se la sanità è diventata un mercato, se vi è un'osmosi tra direttori sanitari regionali, direttori di ospedale, direttori e primari, che poi si penetra anche nel sistema dei medici, che sono chiamati dirigenti ma non sono affatto dirigenti, e anche delle alte professionalità, infermieri, capi coordinatori, eccetera, se c'è questa situazione è anche per motivi ideologici, perché una parte della categoria che lavora in sanità, i medici e non solo i medici ma anche infermieri, hanno sviluppato una vicinanza al potere sulla base della comune ideologia dell'efficienza, che oggi è l'efficienza, ha un solo nome, il profitto, o il profitto, l'efficienza aziendale pubblica significa che devi fare un simil profitto. Quindi per me la questione importante a livello sindacale, ma anche a livello politico, perché solo un'unione dei lavoratori combattivi della sanità consentirebbe di riaprire il dibattito non solo su cosa è oggi la sanità e cosa deve essere, come combattere il potere sanitario e poi affrontare con utenti, cioè lavoratori di altre categorie e popolazione, i problemi di fondo su cui Francesco, per esempio, ci ha accennato alcune questioni importanti. Mi rivolgo quindi ai presenti che abbiano, compagni dell'Udis, mi pare che se ne siano andati per un'altra riunione, che abbiano però un ruolo, una presenza in campo ospedaliero, in campo residenze sanitarie, in campo sanitario. Posso dire due parole io? Molto velocemente. Sì, sì, stai vicino anche tu perché ti si sente male. Marco, non ti muovere, se no si sente male. Male si sente. A me sentite bene? Sì. Sono Antonio Pagliarone, mi sentite bene? Sì. Allora, per quanto riguarda l'intervento del sindacalista dell'Usi, non ho capito letteralmente nulla, mi dispiace, non posso dire nulla, e quindi penso che lui abbia descritto la situazione interna all'ospedale San Carlo, San Paolo, e delle iniziative che stanno portando avanti, bene merite, mal bene, non si può giudicare l'attività sindacale dei lavoratori, assolutamente. Ognuno fa quello che può là dove è occupato, questa è una vecchia storia che dura da sempre. Beh, prima di arrivare al nocciolo della questione che aveva sollevato Francesco Rizzo, secondo me, mi spiace, ma è andato proprio letteralmente alla superficie del problema e dovremmo veramente dare delle buone zappate alla questione per arrivare sostanzialmente a prendere a cuore, proprio nel cuore, la dinamica economica che stiamo vivendo attualmente, ma da molto tempo, perché uno degli errori fondamentali che moltissimi fanno, grazie anche ai mass media, alle banalità che si ascoltano, a parte qualche trasmissione strana, come quella dell'altro giorno sulle Big Pharma, sul secondo canale, che sono rimasto basito. Ma a parte queste eccezioni, sostanzialmente sembra che il coronavirus è stato responsabile di tutta questa dannazione, non è vero. Il coronavirus è semplicemente, come diceva anche lui prima, una ciliegina su una torta che stava marcendo da molto tempo. Noi stiamo vivendo una crisi gravissima che dura da decenni, già dal 2007-2008, e sostanzialmente siamo di fronte a un'economia in cui l'indebitamento è il denominatore comune. Noi viviamo da decenni col problema del debito, questa spada di Damocle che i neoliberisti continuano ad esaltare per ricattarlo, ma non solo i neoliberisti, anche i cosiddetti pseudo-keynesiani. Oggi sostanzialmente sembra quasi che ci sia un'inversione di tendenza. I famosi tagli alla sanità che hanno, e non solo alla sanità, ma a tutto il settore pubblico, e il taglio al welfare state che tanto si è declamato negli anni passati, dovrebbe essere terminato. In pratica hanno capito questi signori che continuare con quel tipo di atteggiamento solito, l'imposizione dell'austerity, provocava solo più. Qual è il problema sostanziale? E che noi siamo di fronte, e le Big Pharma non sono da meno, sto parlando delle grandi corporation del farmaco, ha un indebitamento paventoso, privato oltre che pubblico. Noi pensiamo solo al debito privato o al debito della sanità, ma il debito che hanno le imprese, le corporation, è faraonico. L'altro giorno, in una trasmissione del secondo canale, stranamente dedicato appunto alle grandi corporation farmaceutiche, a un CEO, cioè a un altissimo dirigente, c'era Gabi, la commissione aveva chiesto perché i prezzi di alcuni farmaci, per esempio alcuni farmaci per la cura dei tumori, avevano dei livelli faraonici. E semplicemente questo signore ha risposto: perché il prezzo lo facciamo noi, punto e fine. Quindi il prezzo dei farmaci lo fanno loro da sempre. Non è che adesso è arrivato il vaccino e adesso siamo di fronte a una situazione in cui noi ci scandalizziamo come dei bambini per il fatto che questi signori speculano sul vaccino. Ma vorrei ben vedere che non speculassero sul vaccino. Il problema di fondo è che non sono solo i grandi dirigenti ad avere introiti dalle stock option che sono faraonici, ma tutti gli azionisti, la massa degli azionisti delle corporation che premono, e negli azionisti ci sono i fondi pensione, i fondi comuni, eccetera, i pensionati che chiedono le royalties, che credono, scusate, che chiedono di essere pagati, di avere, di sovvenzionare, di far aumentare questi profitti a tutti i costi. Pensate che le big pharma i soldi non se li sono fatti con i vaccini, che sono ben poca cosa, credetemi, ma se li sono fatti con i farmaci che curavano il tumore o l'epilessia, o i farmaci nel passato hanno costruito il loro impero su questi prezzi paraonici. Guardate che 250 euro un vaccino non è niente di fronte alle migliaia di euro che costano alcuni farmaci per la cura della leucemia o dell'epilessia, che stanno letteralmente distruggendo non solo i lavoratori americani o i lavoratori italiani o europei, ma anche la classe media, la cosiddetta classe media che ormai non esiste più. Uno dei problemi fondamentali che noi stiamo vivendo è che questa gran massa di persone che dai redditi completamente ridimensionati, non solo quelli degli operai, ma anche quelli degli impiegati, anche di quelli che si credevano i garantiti, che una volta venivano definiti garantiti, sono finiti, questa fase è terminata. Il coronavirus è stato lo spettacolo che ha completato questa situazione. Il terrorismo, il linguaggio che viene utilizzato, simile a quello di guerra, ma vorrei ben vedere che non usassero questo linguaggio. Cioè, il problema di fondo è che ci stanno abituando con questa idea malvagia al fatto che noi siamo sempre in guerra e terrorizzano la gente comune, ma da decenni. Noi siamo terrorizzati sin dall'11 settembre del 2001, quando hanno cominciato a mettere in ballo che c'era il problema dei musulmani, e poi è diventato il problema, non so, degli immigrati, e poi è diventato il problema, oddio, dell'AIDS, o poi è diventato quello della SARS, se vi ricordate? C'era anche il problema della SARS, l'influenza aviaria e così. Guardate che questa non è la prima pandemia che noi stiamo vivendo. Nel 53 ero piccolino, ma io mi sono fatto l'asiatico. E allora è stata una pandemia mica da ridere, con tantissimi morti, tanto quanto questo. Però non c'è stato tutto questo caccan, questo spettacolo che è stato costruito attorno. È stato costruito perché c'è la crisi, perché la crisi c'era prima. E questa situazione permette sostanzialmente di gestire un'economia che è nella cacca più completa utilizzando il coronavirus. Guardate bene, io non sono un negazionista e non sono nemmeno uno che va in giro a raccontare le favole su come è stato creato questo coronavirus. Di questo per sicuro non ne frega niente, assolutamente niente. Quello che mi frega è l'uso che stanno facendo del coronavirus rispetto appunto a una popolazione che vive nel terrore. Ora, in una situazione di questo genere, credetemi, fare picchetti, raccogliere firme, cose del genere, sono cose sante, ben vengano queste cose, ma si deve andare più a fondo. Bisogna comunicare alla gente, o ai lavoratori, o anche ai militanti, quelli che di solito chiamavamo militanti, a dare più informazioni, a insegnare a loro ad andare a fondo alla questione e a comunicare agli altri lavoratori la realtà dei fatti. Guardate che i lavoratori non hanno bisogno di un volantino o di ripetere le stesse cose, oh facciamo qui, facciamo là. Si può anche descrivere a un lavoratore quello che sta succedendo nelle corporation a livello mondiale. E quindi lui prende coscienza della situazione che sta vivendo sulla base del fatto che non è che è impotente, ma che è cosciente di quello che sta accadendo intorno a lui, non nel reparto dove lavora, non nell'ospedalino dove lavora, ma a livello generalizzato. Questo è il chiuso definitivamente dicendo questo. Queste iniziative sono lodevoli, che mettono in comunicazione delle persone che magari prima non si conoscevano nemmeno. Io non voglio convincere nessuno, assolutamente. L'unica cosa che vorrei proporre è quello di riflettere e fare ricerca, fare delle ricerche molto più approfondite di quelle che noi stiamo facendo e proporle ai quelli che sono interessati. Grazie e scusate. Una parola. Tu adesso... non è, tu avevi, tu controlla perché secondo me c'hai il microfono spento. Prova a vedere. Dici? No. Dici a me, Marco? No, non dice a te, non ho capito chi lo dice, ma. Tu Pino adesso mi senti? Cosa? Va bene? Se non rispondi vuol dire che non... Sì, dai, andiamo avanti. Il microfono è su Skype. Scusate se ti capisco, ma a quel compagno che parlava del problema delle azioni sindacali all'interno dei vari reparti ospedalieri e anche in altri ospedali, io metterei a riflettere. Guardate che al di là dei sindacati confederali ci sono 60.000 sigle sindacali, cioè noi abbiamo un sindacalismo di base che è di un frazionamento che è allucinante e stiamo predicando l'unità della lotta dei lavoratori. Guardate che è una situazione veramente allucinante, peggio dei gruppuscoli degli anni 70. Direi che oltre a quello, Antonio, c'è un altro aspetto, non solo la frammentazione che è un derivato di queste cose, ma che nella maggior parte dei casi nel sindacalismo di base non si va oltre il neo-keynesismo di sinistra e il socialismo. Hai ragione. Però almeno anche quello può andare bene, Francesco, cioè meglio di una bastonata. Basta che essere coscienti che stai facendo un passo, chiamiamolo così, di rivendicazione, ma anche tu facevi delle proposte ragionevoli, a volte anche raccogliere delle firme, sì, non certo. È che ti distrugge l'anima, no. Puoi anche firmare se magari stranamente riesci a raggiungere un obiettivo. Certo. Quando hanno fatto le lotte per le piattaforme, eccetera, hanno ottenuto degli obiettivi per quei lavoratori, va benissimo. Che si riesce a raggiungere un obiettivo anche se è keynesiano, chi se ne frega, non mi interessa io. Su questo sono completamente d'accordo, cioè siamo noi che possiamo farci carico di certe cose, intendevo dire che l'orizzonte si limita a quello, non va oltre. Scusate un attimo, Pino adesso mi sente, ci sente? Persone che hanno parlato per un quarto d'ora, 20 minuti, ma nessuno ha sentito cosa hanno detto. Mi dispiace. Se il microfono è quello che è, Marco. Alza la voce, non so, farà qualcosa. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ecco, io volevo soltanto attirare l'attenzione, perché sono entrata da poco, perché prima non potevo, anche sulla la questione degli eventuali trattamenti sanitari obbligatori, che anche quella non è una questione sindacale, diciamo, specifica di un settore, però riguarda molti cittadini. A molti gli va bene, a molti non gli va bene. Ecco, quindi si può riflettere benissimo quello che diceva Antonio, che è l'unico che ho sentito per intero, però appunto propongo che si rifletta anche su quelle cose, su questi aspetti, diciamo, di dei diritti, diciamo, del cittadino, ecco, perché anche quella è una cosa abbastanza inquietante. No, c'è anche un problema tecnico, non solo di diritto, perché i vaccini sono diversi, ci sono RNA e vaccini che sono a proteine. Io sono laureato in genetica, vi assicuro che il virus è RNA, io non mi farò il virus, perché ha ragione quello là in Padova, che si chiama, che di che non ho assicurazioni, io non mi faccio niente. Certo. Ma quello è RNA, di sicuro non lo faccio, quello della cifra. Non me lo faccio assolutamente. Ma non voglio farmi neanche gli altri. Però quello lì è sicuro. Anche questa è un'informazione che va data agli utenti. Cioè, a dire, state attenti a cosa vi iniettano. Cioè, al di là delle corporate, delle multinazionali. Sì, per lottare contro appunto gli altri aspetti bisogna anche tenersi in piedi, non avere 100.000 malattie, possibilmente. Guardate che i morti per tumore quest'anno, nessuno ne parla, ma sono in quantità industriale, non sappiamo esattamente quanti sono i morti per tumore, perché tutti questi morti per coronavirus hanno coperto... Adesso saremo... Eccoci! La Flora! Ma c'è la Flora! Sì, allora, adesso siete riusciti a ricollegarvi. C'era Pietro che voleva dire due cose, o sbaglio? Come? Volevo dire... Cosa prima? Giola! Non ho capito, cosa hai detto? Non ho sentito niente prima! E cosa dobbiamo fare? Ripetere? Era lungo, Ti ripeti soltanto che tu sai meglio di me gli appuntamenti, invitando tutti quelli che possono a venire a dare una mano al presidio. No, quello che avevo fatto io era un po' sul personale, su Mancia, sul nuovo regolamento RLS, sul resto, eccetera, eccetera, eccetera, con le vertenze cucciole. Non so se è caso di ripetere ancora tutto. Qualcuno che risponde? Sì, magari sul programma di lunedì. Come? Magari ci parli del programma di lunedì. Del programma di lunedì? Me l'ha già detto Marco questo, no? Vabbè, allora. Ma hai detto tu? Cioè, la voce va e viene, mi sento male. E anche noi dietro c'hai uno sfondo di qualcosa anche tu. È la nebbia. La lettera. Scherzo, Allora, nel mio intervento di prima avevo fatto un accenno un po' all'avvertenza che stiamo portando avanti, nel senso che da gennaio fino a giugno, da quando è iniziata questa emergenza, nella nostra azienda è successo di tutto. Hanno iniziato a sottoscrivere un contratto integrativo aziendale solo con alcune sigle sindacali. La RSU è stata delegittimata e non è stata messa in grado degli inizi, per cui non ha sottoscritto l'accordo. Poi si è arrivato in aprile con una delibera di un nuovo regolamento di RLS, rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, che con atto unilaterale stabiliva il numero totale di delegati che assommano a 6 attualmente contro gli 8-9 che c'erano prima a San Paolo, gli altri 7-8 che c'erano a San Carlo e altri 3 RLS del territorio, perché la nostra azienda comprende anche un pezzo del territorio. Quindi in totale erano più di 15-16 delegati che invece adesso con un atto di imperio sono stati ridotti a 6. Proprio in questa fase critica, quando invece l'apporto, l'aiuto e il numero di RLS dovrebbe essere incrementato piuttosto che ridotto. E quindi molta gente non ha più potuto contattare i vari RLS, la gente si sentiva abbandonata e soprattutto in questa ultima ondata, che è da settembre fino adesso, il contagio fra gli operatori è stato molto, ma molto più grosso rispetto a prima. Penso che in questa seconda ondata abbiamo, per quanto riguarda il San Carlo e il San Paolo, oltre 350 casi di positivi. Quindi capite bene, la percentuale è quasi del 10% del personale, che però non tutti lavorano nelle corsie. Altri suoi argomenti, ma sempre più importanti dell'avvertenza, riguarda l'assunzione del personale. Un'assunzione che non viene fatta, le poche unità che sono arrivate, le 1.007 promesse da Galera in realtà sono poche centinaia, perché 1.005 erano quelli già andati via per pensionamento, quindi poche centinaia di assunzioni a tempo determinato e poi il ricorso massiccio alle agenzie interinali che stanno coprendo le parti, così le carceri da cui noi siamo anche gettori per quanto riguarda l'aspetto sanitario. Quindi il personale che non si riesce a reperire in giro, ma chissà perché nessuno porta a venire a galla la notizia che ci sono oltre 20.000 operatori sanitari, extracomunitari, che magari potrebbero lavorare ma non possono perché non hanno la cittadinanza e quindi non possono accedere ai vari concorsi. Poi altri aspetti sempre collegati alla mancanza di personale che si ripercuote poi sull'organizzazione del lavoro, che vuol dire i salti di riposo, che vuol dire svolgere attività aggiuntive, il ricorso allo straordinario non ne parliamo, la mobilità selvaggia da un reparto all'altro secondo delle evenienze, secondo delle necessità. E poi anche il ciliegino sulla torta, che questo non dovesse bastare, i furbi famosi di 12 ore continuative che in questa fase stanno attuando tra noi e da quello che so in giro anche un po' in tutta Italia. Quindi stanno approfittando di questa fase per arrivare a una cancellazione di diritti conquistati anni addietro, per arrivare nelle condizioni che per avere qualche diciamo, possibilità di fare qualche giornata di ferie per Nesto, oppure 104, Partani, quant'altro, debba proprio supplicare per avere soddisfatta la tua richiesta. Quindi non è più un diritto, ma sta diventando un favore, una discrezionalità che il capo dipartimento usa per tenersi, diciamo, a sottomesso, perché se non basta questa, poi si arriva anche alle minacce vere e proprie. E difatti il malumore tra il personale non è tanto perché è alle prese con un virus violento, no, è incazzato perché lavora male, si lavora malissimo proprio, quando provo a alzare la testa viene represso in modo esagerato, quindi i procedimenti disciplinari fioccano a tutto spiano. Infatti l'altro ieri eravamo proprio al più albergo Fiducio, dove nella seconda ondata si è arrivati a una somma di 120 procedimenti disciplinari da settembre ad oggi. Quindi questo è un po' tutto quello che c'è dentro la nostra vertenza, unita poi alle notizie un po' più meno importanti, ma importanti per chi ci lavora, nel senso il turno mensa, che di fatto è stato abolito per gli operatori turisti, quindi non esiste più la possibilità di mangiare, come non esiste a volte neanche la pausa prevista dopo le 6 ore continuative di lavoro. E poi iniziava anche qualcosa come riconoscimento delle indennità infettive, del turno, che sono rimaste proprio dei valori minimi di 2-3 euro, proprio a valori di 20 anni fa ancora, no? E quindi ci sono un po' anche una richiesta di adeguamento di queste indennità, che per quanto riguarda gli infettivi, anche questi, se gli ospedali vengono considerati Covid fino alla sua globalità, non si capisce perché poi dopo si debba andare a fare la scelta tra chi era in prima linea, chi in una linea e mezza, chi due, chi niente, eccetera. E prendo ancora più divisione per queste indennità, quando l'infettivo, se c'è il rischio, è per tutti, quindi va dato e riconosciuto a tutti. Come anche poi c'è anche il problema della restrizione, nel senso il tempo impiegato per la restrizione è considerato tempo lavorativo, per l'ospedale in fiera è previsto 30 minuti per indossare la divisa, invece la nostra dirigenza ha diminuito ulteriormente il tempo di restrizione e ha portato a 5 minuti per cambiare la casacca, raggiungere lo spogliatoio, raggiungere il reparto e quindi fare tutto questo in pochi minuti. E quindi questo è un po' quello che è contenuto nella nostra avvertenza. Invece per quanto riguarda lo svolgimento della giornata, i due appuntamenti pubblici sono confermati, cioè uno alle 10 all'ospedale San Paolo e uno alle 14.30 al Palazzo Regione Lombardia, con l'adesione del Comitato Difesa dei due ospedali, ci sono già arrivate altre organizzazioni sindacali che hanno aderito alla nostra iniziativa, e a livello aziendale lo sciopero viene promosso e è stata data adesione anche da parte di Nursing Gap, Sindacato Infermieri e USB. Invece ci saranno poi altre scaramucce a mattina presto, ma non è il caso di invitare la gente perché i problemi sono più questioni interne, quindi per gli altri non è accessibile l'ingresso e quindi non lo pubblicizziamo. Comunque si farà un giro all'interno del San Carlo con una sorpresa per i nostri amministratori e poi tutti si concluderà l'appuntamento alle 10.30, cioè arriveranno quelli del San Carlo. Se avete sentito tutti, basta, io finisco. No, finalmente abbiamo sentito. Conte non è sparito? Eccomi, eccomi. Mi sentite? Ti sentiamo. Volevo dire che si è parlato molto giustamente anche delle lotte negli ospedali, degli ospedalieri, sono per carità, niente di contrario, però volevo dire che con tutto il rispetto se epidemie in generale, quindi anche questa del Covid, non possono essere messe sotto controllo e eventualmente debellate senza lo sviluppo della medicina del territorio. Io in tempi passati ho fatto il medico di base, il medico scolastico. Pare che l'abbiano capito. In tempi in cui una certa struttura di medicina del territorio esisteva, certo, non era il massimo, comunque riuscivamo a tenere sotto controllo, per esempio nelle scuole, se c'erano dei focolai di qualsiasi malattia infettiva, ricordo ancora la tubercolosi, l'epatite, eccetera. Ora questa medicina del territorio, per quanto carente, è stata completamente smantellata a partire dagli anni 90. Non esiste più medicina scolastica, non esiste medicina del lavoro, non esistono consultori, il medico di base è stato, diciamo, ridotto a un ordinatore di spesa, cioè quello che fa le ricette e produce spesa per il Servizio Sanitario Nazionale, quindi anche più collato. Il governo sta rivedendo questo tipo di politica. Ma speriamo, però i 9 miliardi destinati alla sanità a loro servirebbe a poveri non danno molta speranza. Oltretutto la medicina del territorio non fa molti profitti. I profitti li fanno gli ospedali, soprattutto i grandi ospedali, per la legge della concentrazione capitalistica, e questa cosa è iniziata già dagli anni 90 con i famigerati TRC, cioè i sistemi omogenei di diagnosi, che attribuiscono ad ogni intervento ospedaliero un corrispettivo economico. È chiaro che i dirigenti ospedalieri tendono a privilegiare gli interventi o i ricoveri con maggiore gratificazione economica rispetto a quelli con meno gratificazione. Ora, l'ospedale in ogni caso non ha nessun contatto con il territorio circostante, assolutamente. Ed è poi l'ultima trincea della medicina, cioè dove arrivano già i malati gravi, almeno quello che può essere. Ma prima cosa succede? Molti pazienti che avevano sintomi riferibili forse al Covid, forse no, sono rimasti a casa al massimo di collegamento telefonico con gli effetti gravi, e devono segnalare se c'erano peggioramenti o meno della cosa di questo. Ascolta, non si sente bene, eh? Sì, allora sì. Probabilmente quando il peggioramento c'era, era già abbastanza avanzata la cosa, quindi in ospedale dove i reparti intensivi erano anche carenti, però era l'ultima spiaggia, diciamo, della cura della malattia. Dai, attento, stai vicino al microfono. Non ti si sente? No, c'è una mappa dei focolai di contagio a livello statistico. La città a Milano, le fabbriche, RSA si sa quello. Non ci si sente, Visconte. Si sente, Visconte, non si capisce niente. Vabbè, allora ho finito, dai. No, allora, no, che... alzi la voce. Avvicinati. Stai più vicino. Al microfono. Sono con il telefono, quindi più di questo non riesco. Ah, sei con Sky. Vabbè, comunque diciamo, il succo del discorso l'ho fatto. Quindi, sì, è l'articolo che sta circolando. Hai ripetuto le cose che hai scritto in quell'articolo, sì, che sta circolando online. È girato, quindi vuole per lei. Non è il caso di ripetere tutto quanto. No, no, l'ho letto. No, ma difatti, guarda, che volevo dirti, secondo me, questa rivalutazione della medicina sul territorio conviene anche al governo, conviene anche alle istituzioni ripristinarle, perché esiste anche una riforma all'interno del welfare, che sì, è stato tagliato e continuerà a essere prevuto, magari non procederanno, magari lo comprimeranno e cercheranno sempre di lavorare in deficit, perché ormai tutto è deficit, cioè ormai, mentre prima era un tabù il deficit di bilancio, oggi non è più. Anche la Germania non bestemmia più se tu entri in deficit di bilancio. È bastato il coronavirus in società, anche perché sono tutti indebitati fino al collo, anche la Germania, quindi nessuno può fare il paladino o il verginello davanti a questa situazione. I tagli, come diceva Francesco Rizzo, sono stati fatti anche in Germania. E come? Il welfare in Germania è stato tagliato alla grande, la mitica Germania di cui tutti parlano. Per cui noi ci troviamo di fronte a dei governi che volere o volare nei confronti della sanità, e questo è il virus, se vogliamo, è l'unico pregio che ha avuto, dovranno ridimensionarsi, ripristinare qualcosa. Certo, il medico nelle scuole non tornerà mai più, perché costa troppo, e poi molto spesso non è che servisse a molto, però il medico del territorio serviva. Guarda che nelle scuole l'infezione è molto bassa, e nei trasporti, infatti ce l'hanno tutti con quella scema dell'istruzione, ma nessuno dice niente a quell'altra cretina del ministro dei trasporti, che non ha fatto letteralmente niente, quella del PD. Per cui non parliamo poi della destra, perché poveretti, non sono in grado di fare nulla, ma neanche l'opposizione intelligente, non sono in grado di fare nulla. Oggi la politica è completamente in braghe di tela, sia che sia il governo che l'opposizione. Anche loro hanno paura, loro vivono nel terrore, tanto quanto vivono nel terrore la gente comune. E questo è che trasferisce la gente alla politica, il terrore. Poi ci sono gli sbruffoni come quello là, che, o Johnson, che poi quando si è beccato il coronavirus si è spaventato, e quell'altro scemo di Trump. Però la stragrande maggioranza dei politicanti hanno paura, non hanno strategie spaventose, vogliono solo che questa cosa passi presto, e più presto possibile, e non sanno più cosa fare. Ciao, mi sentite? Ci sentiamo. Noi andiamo, chiudiamo, perché poi abbiamo altri impegni. Ciao. Ci aggiungiamo. Adesso se mi penso che mi sentite. Sì. Cioè, qui l'ora è anche tarda. Se vuol dire qualcosa, una domanda, qualcosa, ma più, molto stringato, può farla. Ma io direi, magari, se Francesco è d'accordo, io non chiudiamola qui, magari ci rivediamo un'altra volta, magari ci sono altre cose da mettere sul tappeto, anche Francesco e altri magari vogliono intervenire, riflettono un po' su alcune cose, dicono la loro. Cioè, è una bella cosa incontrarsi almeno così. Sì, ci aggiorniamo. Se siete d'accordo, eh? No, ma io ho 22 ore e non le reggiamo. No. Possiamo ipotizzare un altro appuntamento, anche perché non pensavamo di chiudere qui la discussione. Certo. Abbiamo detto che era parziale su alcuni e cose da sviluppare, secondo me ce ne sono anche su quello uscito un attimo, per andare più avanti. Devo dire sull'ultima cosa che dicevi, anche, sicuramente il potere si pone di governare questa situazione della medicina e deve ridefinire il rapporto con la medicina del territorio. I passi che ci sono dentro il documento del governo riguardano molto la telemedicina. Sì, non vanno in questa direzione. Non vanno in questa direzione. Anche in Veneto si costruiscono nuovi ospedali, si stanno costruendo nuovi ospedali col project financing secondo il vecchio stile. Però magari se c'è un aggiornamento ne possiamo parlare. Sarebbe la pena anche. Forse è meglio. Voglio solo comunicare una cosa, che rispetto all'intervento del compagno dall'ospedale San Carlo, che in una piattaforma che è stata fatta di recente c'è proprio la rivendicazione che non ci sia nessuna forma di discriminazione nei confronti del personale sanitario di immigrazione, che è più ampio di quello che diceva il compagno, cioè sono stimati 30, forse anche 40.000 unità nelle cooperative, e sono anche medici alcuni, non sono solo infermieri, sono anche medici, e per gli infermieri c'è un accordo capestro che in parte viene applicato, in parte no, per cui possono stare sul territorio nazionale solo 24 mesi. Dopodiché c'è un turnover e bisogna che vengano altro personale, proprio per strutturalmente negare la possibilità di una loro stabilizzazione. Quindi veramente è un problema molto molto molto serio di discriminazione istituzionale, di Stato, diciamo. Però, o di potere dell'ordine degli infermieri. Sì. Purtroppo, dico, purtroppo, perché c'è... È l'ordine dei medici che preme sul Ministero, che tra l'altro è nelle mani di uno di LeU, non è neanche nelle mani di uno della Lega, voglio dire. E ha ragione il compagno che ha parlato. È un problema vergognoso. Aggiorniamoci, dai. Francesco e Marco, provate a indicare un altro giorno in cui ci si può vedere... Perché anche il problema che ha posto Antonio del rapporto tra la crisi economica e la crisi sanitaria, no? È un problema che va scandagliato. Che va scandagliato, va scandagliato. Io propongo per l'incontro che viene anche un esame del sistema sanitario come sistema perfetto della finanziarizzazione della truffa e del funzionamento del capitalismo di oggi, che pone poi problemi di vita, di sopravvivenza, eccetera, alle masse. Cioè ogni momento della vita della sanità attuale, non solo in America, ma anche in Europa, in Italia, soprattutto in Lombardia, è un momento di truffa. Ricordiamoci che il gruppo San Donato oggi ha avuto un sequestro per 33 milioni. Per truffa alla regione, che non credo la regione avesse denunciato, ma che è stata poi rilevata. Ogni momento della vita di questi gruppi è come raspollare dalla greppia e dalla gallina dalle uova d'oro, esattamente come la ricerca, come diceva Antonio, viene fatta dalle grandi corporation, ma a spese pubbliche, ma questo è noto da tempo. Va bene, allora decidete voi il giorno, mandate un'email, come si dice, ve ne faremo sapere. Ciao. ciao a tutti, grazie di... ciao. Arrivederci. Buona serata. Ciao. A presto. State bene. Ciao. Okay.